che se alle volte sei giù. Non aver paura, non ti preoccupare, tu non ci pensare più. Vorranno vederti per terra con il cuore che non batte, ma tu guardali negli occhi e dilli: sono meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Tutti rapper, sì, sì. Ora troie prima, principesse, sì, sì. Quanta ipocrisia che c'è nel mio paese. Tutti presi dalla crisi, sì, ma poi non badano a spese. Sono ricco, qua chi fa musica è ricco. Quello emergente, ma come fa già profitto? Oh, vuoi fare strada? Beh, ti consiglio un talent. L'umiltà è fondamentale, 500 per partecipare. Anche se alle volte sei giù, non aver paura, non ti preoccupare, tu non ci pensare più. Vorranno vederti per terra con il cuore che non batte, ma tu guardali negli occhi e dilli: sono meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. A scuola andavo male, mi dicevano: che vieni a fare? Caro Matteo, si accontenti della quinta elementare. Il professore rideva: che povera famiglia, uno sfigato così, ma chi se lo piglia? Chiedilo a tua figlia, dovresti sentirla come bisbiglia. Il mio nome, quando lenzo un po' come colazione. Da quando faccio questa vita da star, tutte le mattine faccio footing, da casa fino al bar. Anche se alle volte sei giù, non aver paura, non ti preoccupare, tu non ci pensare più. Vorranno vederti per terra con il cuore che non batte, ma tu guardali negli occhi e dilli: sono meglio di voi. Meglio di voi. Meglio di voi. Meglio di voi. Di voi. Rapper stronzi, donne stronze, gente stronza, vita stronza, prof stronzi, preti stronzi, tutti stronzi, brutti stronzi. Sono meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali, meglio di voi. Guardali. Meglio di voi.